Perfetta notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Certo, galleggiare non è possibile, perché non si può pensare di uscire da una situazione di questo genere galleggiando. Tutto voglio tranne che questo. Insomma, questo governo galleggia o non galleggia, e se non galleggia veleggia, e qualcuno potrebbe dire l'importante è che reggia, insomma, per qualcuno no, per qualcuno sì, si andrà al voto no. Questa era una frase emblematica della direzione del PD di oggi, Letta, che dice no, non si può galleggiare, il governo non deve galleggiare, bisogna andare avanti. Forse dovrebbe essere ancora in corso, è stata una lunga direzione questa del PD, perché insomma sono in gioco cose importanti, tra l'altro dopo la decisione di Grasso di ieri di costituire il Senato parte civile nel processo contro Berlusconi per la compravendita di senatori, insomma ci sono rischi di scricchioli, ma staremo a vedere, ne parleremo molto stasera. C'è sempre la possibilità per voi di fare i vostri commenti attraverso la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure attraverso i messaggi al 349 238 6666. Ma intanto, come sempre all'inizio, vi racconto quella che è stata la giornata. Appunto, la direzione o la riunione del PD. Renzi dice: con noi la sinistra e i moderati, il rimpasto è un problema di Letta, e propone il nuovo Senato, 150 persone senza indennità e una data per decidere se andare avanti o al voto. Forza Italia, l'ira del partito contro il presidente del Senato Grasso, e lui replica: nessuna persecuzione. Governo Letta, ecco 250 milioni di incentivi alle imprese per assumere laureati e ricercatori. Olimpiadi invernali, il segretario generale dell'ONU alla vigilia dei giochi di Sochi chiede di alzare la voce contro gli attacchi ai gay. Shumi non è morto, arriva dall'ospedale di Grenoble la smentita rispetto alla notizia che era circolata durante il giorno, e Twitter delude la crescita degli utenti e il titolo crolla a Wall Street. Iniziamo quindi dalla direzione del PD, dalla quale dopo vari giorni di silenzio, era un po' che non si sentiva, il segretario Matteo Renzi torna a parlare, presenta la bozza di riforma del Senato e sul rimpasto dice: è un problema di Letta. Avviata quella della legge elettorale, Matteo Renzi accelera anche sulla riforma del Senato e su quella del titolo quinto della Costituzione. C'è un'intesa con le principali forze politiche e il loro iter in Parlamento partirà il 15 febbraio, spiega il segretario democratico, che parlando alla direzione del partito torna anche sull'Italicum. Si vince con i voti, non con il tipo di legge elettorale, dice Renzi, che dopo le richieste di rimpasto e le voci di una staffetta a Palazzo Chigi tocca anche il tema dei rapporti con Letta, rivolgendosi in modo diretto al Premier. Se il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene che le cose vadano bene come stanno andando, che vada avanti. Se il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene che ci siano dei cambiamenti, delle modifiche da apporre, affronti il problema nelle sedi politiche e istituzionali, indichi quali e giochiamo a carte scoperte. Immediata la replica di Letta, anche lui presente alla direzione democratica: per il governo galleggiare non è possibile, altrimenti i problemi non si risolvono, sottolinea il Premier, che si dice d'accordo con Renzi sulla necessità di accelerare sulle riforme. Il Movimento 5 Stelle le teme e questo spiega l'inasprirsi delle sue proteste, aggiunge poi Letta, in linea anche su questo col segretario democratico. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto va avanti la polemica di Forza Italia nei confronti di Pietro Grasso dopo la sua decisione di far costituire Palazzo Madama come parte civile nel processo a Berlusconi. Stavolta la seconda carica dello Stato a finire nel mirino di un partito. Scontro in aula a Palazzo Madama tra Piero Grasso e Forza Italia. Il Presidente del Senato risponde sulla decisione di far costituire Palazzo Madama come parte civile nel processo per la compravendita dei senatori nei confronti di Silvio Berlusconi. Così Grasso. Questa è stata una decisione che ho preso con piena responsabilità. L'ho presa al di sopra delle parti, dopo aver sentito le argomentazioni di tutti. Vorrei sapere: il Senato fa parte dello Stato oppure no? Ma dai banchi di Forza Italia si alzano fischi e urla, poi i senatori azzurri abbandonano l'aula per protesta. Il partito di Berlusconi valuta una mozione di censura nei confronti di Grasso. Così Elisabetta Alberti Casellati. Lei ha stracciato tutte le regole, ha dismesso il suo ruolo istituzionale per assumere un ruolo politico. Altro capitolo alla Camera, l'audizione dei deputati 5 Stelle dopo i disordini per il decreto IMU Banca Italia in aula da parte della Presidente Laura Boldrini. Contesta Alessandro Di Battista, Movimento 5 Stelle, non riconosco il maxi processo Boldrini, me ne infischio. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Nel frattempo si è deciso niente esenzione per l'IMU, mentre il tetto per le donazioni dei privati scende a 100.000 euro. Questi sono alcuni punti del decreto legge sul finanziamento ai partiti, che ha ricevuto il via libera in Commissione Affari Costituzionali dal Senato. Il testo del decreto legge sul finanziamento dei partiti passa in Commissione Affari Costituzionali del Senato, ma resta un'incognita sulla tempistica per il via libera definitivo. Il decreto scade il 26 febbraio, ma nel frattempo dovrà essere approvato il pacchetto su Destinazione Italia, mentre entro il 21 Palazzo Madama dovrà ratificare il decreto Caceri. Questo potrebbe rallentare i tempi dell'approvazione definitiva. Quanto ai contenuti, il limite per le donazioni private scende da 300.000 a 100.000 euro rispetto al testo del Consiglio dei Ministri. I partiti inoltre dovranno pagare l'IMU sulle proprie sedi, mentre sono cancellate le agevolazioni per le loro scuole. La Commissione infine ha mantenuto lo stesso testo del Governo nel ridurre in 3 anni del 25, 50 e 75% l'importo destinato al finanziamento, che ora è di 91 milioni di euro. Paolo Panceri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E oggi il Presidente del Consiglio Letta, al termine del Consiglio dei Ministri, ha annunciato incentivi alle imprese per assumere laureati e ricercatori. Ieri Letta aveva incontrato il Presidente degli Industriali, Giorgio Squinzi, che aveva rilanciato con forza la necessità di dare segnali concreti per lo sviluppo. E sentiamo cosa ha detto questa mattina Squinzi al microfono di Giovanni Minoli su Radio 24 a proposito del colloquio appunto avuto con Letta. Ha preso impegni? Sì, ha preso l'impegno di tornare da noi il 19 di febbraio, si è offerto di venire a visitarci in consiglio direttivo di Confindustria, ma viene portando delle soluzioni, alcune già fatte e alcune avviate. Ma Presidente, cerchiamo di essere chiari, se il 19 viene con la bisaccia vuota, che cosa capita? Sarebbe un grosso problema, a quel punto credo che non ci resterebbe altro che appellarci al Presidente della Repubblica. Ma il Presidente della Repubblica cosa può fare? O scioglie le Camere o fa un nuovo governo? Ma io credo che il Presidente della Repubblica, nella sua grande saggezza, che personalmente ho già avuto occasione di sperimentare più volte, prenderà le decisioni giuste. Ma voi avete detto, se non c'è la bisaccia piena, elezioni, quindi insomma una delle due cose il Presidente dovrà farla. Lei si affida. Sì, mi affido. Gli industriali chiedono risposte dal governo e una prima a stretto giro sembra arrivare dal Consiglio dei Ministri con un piano finalizzato a incentivare ricerca e innovazione nelle imprese. 250 milioni di euro per il 2014 annuncia il Premier Letta e se funzionerà potrà essere ripetuto per i prossimi 6 anni. È un piano che incentiva l'assunzione di laureati, l'utilizzo di dottori di ricerca, è un piano che dà a chi fa attività di impresa voucher per inserire attività di innovazione e di ricerca nella propria attività di impresa. Dal Consiglio dei Ministri anche il via libera ad un disegno di legge sull'RC auto per ridurre i costi dell'assicurazione, che ricalca alcune norme già previste in precedenza, e poi disco verde al decreto che attua una direttiva comunitaria sui consumatori. Ci saranno dunque più garanzie, in particolare negli acquisti online. E intanto da Berlino il ministro degli esteri Bonino interviene sulle contestazioni mosse alla Germania nella gestione della crisi. Chi la considera responsabile di tutto non solo dice una falsità, ma si comporta in modo ingiusto. Del debito e della crisi non sono responsabili né la Germania né l'Europa, ma noi italiani. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E parliamo adesso delle perquisizioni nella sede dell'Agenzia Spaziale Italiana a Roma. La procura sospetta un giro di tangenti, indagato anche il presidente Saggese. Consulenze fittizie dietro le quali si sarebbero mascherate tangenti, e questo è il quadro al vaglio della Procura di Roma, che è scritto nel registro degli indagati il presidente dell'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, Enrico Saggese, e con lui altre 6 persone, concussione e corruzione, i reati ipotizzati. Saggese è indagato anche per avere minacciato un dipendente dell'ASI. Si tratta di un dirigente incappato per caso in alcune fatture irregolari. Riferito l'accaduto al presidente, sarebbe stato minacciato di ritorsioni sul lavoro se avesse parlato ad altri dei suoi sospetti. Il dirigente si è rivolto alla procura, da qui l'inchiesta, che gira attorno a quelle fatture ritenute frutto di operazioni inesistenti, rilasciate da società di servizi per nascondere un giro di tangenti. Nell'inchiesta è finita anche un'intera famiglia, i fratelli Francesca e Mario Giacomo Sette, collaboratori di Saggese, già dipendenti di Finmeccanica e del Centro Ricerche Aerospaziali di distaccati all'ASI e con loro i genitori Vittorio Sette e la moglie Elena Oteri, titolari della società di comunicazione Getit. Secondo chi indaga, la Getit avrebbe ottenuto commesse dell'ASI grazie a una serie di favori. L'indagine sarebbe solo alle prime battute. Nei prossimi giorni l'analisi del materiale sequestrato nelle sedi dell'ASI e delle società coinvolte. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La cronaca straziata, così dice la vice ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle pari opportunità, Maria Cecilia Guerra. Così ha definito il suo stato d'animo, straziata dopo essersi recata questa mattina al reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale romano San Camillo a visitare Chiara Insidioso Monda, la ragazza di 19 anni che è in coma in seguito alle percosse ricevute dal suo convivente lunedì scorso. Dice: ho voluto portare la mia solidarietà, rendermi conto di persona delle condizioni di Chiara, che sono purtroppo gravissime. Dice: in queste circostanze spesso le donne fanno fatica a rendersi conto, anche solo a pensare di essere in estremo pericolo, non colgono i segnali di un allarme perché coinvolte emotivamente. E ha aggiunto la vice ministra: penso che la via d'uscita di medio e lungo periodo sia l'investimento sull'educazione, sull'affettività e a una relazione paritaria. Parliamo adesso dei giochi invernali. Manca un giorno all'inizio delle Olimpiadi invernali di Sochi in Russia. Il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon rilancia la polemica sui gay che accompagna l'avvio dei giochi. Calcolando 40 secondi per delegazione, spiegano al CONI, l'Italia questa sera dovrebbe sfilare alle 20.32 circa, le 18.32 ora italiana. Siamo il paese numero 32 a presentarsi ai 40.000 spettatori dello stadio FIST, Parco Olimpico di Sochi. L'elenco segue l'alfabeto cirillico, lasciando naturalmente per ultima la squadra russa di casa. Così l'Italia sarà preceduta dalla Spagna, Ispania, e precederà il Kazakhstan. Ci sarà una novità, ha detto ieri il presidente del CONI Giovanni Malagò, che ha deciso di lasciar sfilare solo atleti e tecnici, riducendo i dirigenti del Comitato Olimpico Italiano. Sono loro i veri protagonisti, ha spiegato Malagò. In realtà l'uomo che vuole risaltare più di tutti è Vladimir Putin, naturalmente. Ci si interroga sugli effetti speciali preparati dagli organizzatori al termine della sfilata delle squadre per presentare la storia russa e sovietica e stupire il mondo. Ma l'attesa più grande è per il ruolo che Putin avrà ritagliato per se stesso nel momento che ha atteso per anni. Appuntamento questa sera a Sochi per le prime Olimpiadi invernali russe. Antonella Scott, Radio 24, Sole 24 Ore, Sochi. E questa era in sintesi la giornata. Giungo per il calcio, curve chiuse allo Stadio Olimpico per Roma-Sampdoria il 16 febbraio e Roma-Inter il 2 marzo. Questo l'ha disposto il giudice sportivo dopo i cori discriminatori razzisti di ieri contro il Napoli. C'è Tullio sulla pagina di Effetto Notte che chiede: nessun post questa sera, nessuno stimolo. Sì, vi dicevo, intanto tutti gli argomenti che volete, in particolare anche la direzione di oggi del PD, il destino del governo Letta, se vi pare anche opportuna la decisione presa dal Presidente del Senato Grasso. C'è per esempio Domenico della provincia di Lodi che scrive: l'idea di Renzi del nuovo Senato mi piace, peccato che tra i 21 della società civile, cioè tra i 21 membri della società civile, scatterà la corsa alla raccomandazione per farne parte. E poi Lidia dice: si vergognino tutti, smettano di litigare e facciano qualcosa di concreto. Intanto di concreto sentiamo la viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme. Allora, prima di affrontare gli argomenti, di approfondirli con gli ospiti, uno in particolare che forse non si fa trovare in questo momento perché è arrivata una notizia ottima per lui questa sera, speriamo che tra i festeggiamenti insomma si ricordi anche di rispondere al telefono. Intanto io invece vi ricordo quali sono stati i fatti principali di oggi. La riunione del PD o direzione del PD con Renzi che dice a Letta: bisogna adesso giocare a carte scoperte, sul governo decidiamo il 20. E poi propone il nuovo Senato, 150 persone senza indennità e una data per decidere se andare avanti o no, il voto, e quindi sarebbe appunto il 20 febbraio. Forza Italia, l'ira del partito contro il presidente del Senato Grasso che replica: nessuna persecuzione. Governo Letta, ecco 250 milioni di incentivi alle imprese per assumere laureati e ricercatori. Olimpiadi invernali, il segretario generale dell'ONU alla vigilia dei giochi di Sochi chiede di alzare la voce contro gli attacchi ai gay. E poi c'è anche una notizia che vedo ora, è piuttosto bizzarra, insomma, per dirvi come si rivoluzionano le cose, la rivoluzione proprio della Coca-Cola, presto in capsule a casa propria. Coca-Cola da produrre direttamente a casa propria, il colosso delle bollicine acquista il 10% di GMCR, il produttore di caffè in capsule, per 1,25 miliardi di dollari. e quindi si potrà ricevere a casa queste capsule e farsi la Coca-Cola a casa. Vedete come cambiano i tempi. Adesso invece affrontiamo appunto la questione, una delle questioni che creano più polemiche in queste ore. E saluto il professor Francesco Clementi. Buonasera, professore. Buonasera. Docente buonasera. Di diritto pubblico comparato all'Università degli Studi di Perugia, tra l'altro componente, diciamo a titolo gratuito, della Commissione per le riforme costituzionali nominata dal governo italiano. Professore, sulla questione tanto dibattuta nelle ultime ore, che ha tanto fatto arrabbiare Forza Italia, cioè la decisione del Presidente del Senato Grasso di costituire il Senato stesso parte civile nel processo che partirà il prossimo 11 febbraio, in cui è coinvolto anche Berlusconi, per la compravendita dei senatori, cioè quella compravendita di alcuni senatori del PD negli anni nel 2008, che fece cadere il governo Prodi. Secondo lei, adesso ne volevo discutere con un altro ospite dal punto di vista dell'opportunità politica, ma dal punto di vista, diciamo, di legittimità giuridica, di strumenti costituzionali, è una cosa che legittima questa? Guardi, dunque, la decisione è certamente legittima, ed è legittima innanzitutto perché è presa dal soggetto esponente che ha la titolarità a rappresentare il Senato, cioè il suo Presidente. E, nei modi e nelle forme poi politicamente si può valutare, però certamente tecnicamente legittima. Che cosa chiede però il Presidente Grasso? Con questa decisione il Presidente Grasso ha inteso rendere parte civile nel processo penale il Senato della Repubblica, chiedendo sostanzialmente un risarcimento, una restituzione. Questo è un dato interessante perché è accaduto qualche volta, che molto molto molto raramente, che il Senato si costituisse in parte civile, ma è accaduto in un recentissimo caso, quando alcuni dipendenti del Senato sono stati, diciamo, trovati a rubare, e quindi il Senato, a maggior ragione di fronte a un danno patrimoniale, si è costituito appunto parte civile. Ecco, in questo senso colgo quindi il passaggio nel quale il Presidente Grasso dice: per me è stato un dovere morale, perché naturalmente di materialità non c'è nulla da ricostituire. Se la presunta, diciamo, compravendita a cui ci si riferisce fa riferimento naturalmente a una situazione storica, come ricordava lei, il governo Prodi, e dunque è una situazione tipo politico. Mi permetto di aggiungere una cosa. Sì. È interessante questo fatto, perché lo dico veramente con il massimo tatto e spero di essere chiaro. Dunque, dal punto di vista costituzionale, la Costituzione dice che i parlamentari sono tali senza vincolo di mandato, e in particolare esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, in particolare l'articolo 67, il che nei fatti ci porta a dire quindi che un parlamentare appunto è libero di decidere senza alcun problema, di prendere le sue decisioni in piena libertà. Se poi prendiamo il catalogo dei reati, noi scopriamo che dazioni di denaro o scambi di denaro tra parlamentari in realtà non sono vietati, cioè non è un reato. Questo è il punto politico interessante e anche tecnico. Per cui il tema da capire è se la compravendita è innanzitutto un reato in quanto tale, dal mio punto di vista non solo materiale, ma io vorrei inserirlo in primis, ma diciamo questo non vale, siamo al dato oggettivo, sì, di fatto. E dunque se da questo punto di vista il collegamento fra una potenziale dazione di denaro per cambiare voto, per cambiare gruppo parlamentare, insomma per spostarsi, per cambiare posizione politicamente, è compatibile o meno poi anche con l'articolo 67 della Costituzione, e se questo spostamento costituisca un reato. Le ragioni possono essere plurime: uno si può innamorare del leader dello schieramento a lui avverso, piuttosto che ricevere del denaro, piuttosto che trovarlo più simpatico, mille e uno motivi. Il tema interessante, perché se non è reato, evidentemente anche la domanda di risarcimento, e dunque anche a scalare la costituzione di parte civile appunto del Presidente del Senato, diventa più un atto figurativo, che mi consenta di dire però, alla luce del fatto che potrebbe non essere considerato reato tutto ciò, è effettivamente importante che ciò accada, perché dimostra in fondo l'importanza di una cosa, che al di là della tenuta morale o meno che i partiti politici o sedicenti tali hanno o i loro esponenti hanno in Parlamento, una cosa deve essere ben chiara, che le scelte politiche dei parlamentari non sono libere fino al punto tale di essere così libere. Però vedo che oggi, in seguito a tutte queste polemiche, Grasso ha detto se c'è l'accordo l'Aula può revocare la decisione, nel senso quindi è revocabile questa decisione presa dal Presidente del Senato. Sì, perché semplicemente siamo molto chiari. La decisione è presa dal soggetto che rappresenta il Senato, cioè il suo Presidente, e il Presidente è naturalmente libero di prendere le decisioni che ritiene più opportune per la migliore rappresentanza dell'ente appunto costituzionale che rappresenta. Però da questo punto di vista l'Aula, che è sovrana innanzitutto ovviamente, anche maggiore giorni più del suo Presidente, può decidere diversamente. Quindi se ci trovassimo di fronte ad un voto dell'Aula che fosse contrario al voto del Presidente, il Presidente non potrebbe fare altro che prenderne atto. Questo assolutamente sì, mi consenta di dire però che il diritto parlamentare è il massimo diritto politico e questa, se ci trovassimo di fronte al caso di specie che lei ricordava 2 secondi fa, cioè il voto dell'Aula contro la decisione del Presidente, avremmo a scalare degli effetti pazzeschi, a quel punto il Presidente sarebbe delegittimato, si potrebbe pensare che forse si potrebbe dimettere e via via. Cioè, quindi è possibile farlo ma con delle conseguenze poi a domino, come dice lei, le cose insomma, si complicherebbero. Il diritto parlamentare è un diritto politico, tanto è stata una decisione legittima quella del Presidente, ma che produce appunto effetti politici, come vediamo sui nostri giornali, quanto una decisione contraria e opposta produce, è legittima, ma produce anch'essa effetti politici. Grazie professor Clementi, è stato chiarissimo, grazie, buon lavoro, buona continuazione. Grazie. E adesso saluto finalmente, eccolo, Antonio Polito. Antonio, ho capito che sei diventato direttore del Corriere del Mezzogiorno, ma tra festeggiamenti vari ho detto non sente che lo stiamo chiamando. No, è una giornata complicata perché ho scritto anche per il Corriere della Sera sulla crisi politica e quindi mi avete beccato in un momento un po' affaticato, ma eccomi. Antonio, grazie di esserci, comunque complimenti per la direzione del Corriere del Mezzogiorno. Antonio è anche editorialista del Corriere della Sera. Visto che hai scritto questo pezzo, chi ha scritto questo pezzo? Come vedi questa possibile crisi? Come vedi la direzione del PD? Questa complicazione ulteriore in seguito alla decisione di Grasso, no, di costituire parte civile il Senato nel processo che ho già ricordato contro Berlusconi per la compravendita dei senatori inizia il prossimo 11 febbraio. È diciamo un clima molto vivace, effervescente. Eh sì, figuri. Movimento 5 Stelle dall'altra parte. Non ci sono mai. Ecco, infatti. Ma a memoria di persona. Io ho scritto della staffetta, dell'ipotesi di staffetta. Tra Renzi e Letta. Viene fatta negli ambienti del PD, ma anche fuori. Cioè dell'ipotesi di mandare in corsa Renzi al posto di Letta. E penso che sia una soluzione che abbia molte controindicazioni, perché il giorno che Renzi facesse un governo Berlusconi avrebbe pieno titolo a chiedere di farne parte o di far parte con Forza Italia di un esecutivo con cui condivide il processo di riforme costituzionali. Ma perché, scusa Antonio, sarebbe non potrebbe permetterselo perché si è sempre detto contrario alle larghe intese, e il risultato potrebbe essere che saltano anche gli accordi, i patti sulle riforme elettorali e costituzionali. Tra l'altro vorrei ricordare che la legge elettorale che si sta preparando, anche se siamo ancora lontani dall'averla approvata in Parlamento, è una legge che non può funzionare, non può esistere senza l'abolizione del Senato elettivo, che siccome prevede un possibile ballottaggio finale, non è possibile immaginare due ballottaggi per due camere diverse che hanno fra l'altro platee elettorali diverse e potrebbero dare risultati opposti. Quindi i due processi si tengono e temo che questa chiacchiera sul governo possa far saltare tutto. Quindi tu dici che chiacchiera sul governo nel senso che si potrebbe comporre, dicevo, un governo con Renzi e con l'ingresso anche di Berlusconi, o la decisione di Grasso può far saltare tutto? Ma, no, io parlo dell'ipotesi di cambiare governo. Insomma, il governo che c'è adesso sta chiaramente è un po' impaludato, questo è fuori discussione. Ma secondo me il tutto deriva molto dal fatto che è un governo che non è sorretto, non è sostenuto. Insomma, il PD di Renzi parla del governo di Letta come certi mariti parlano delle mogli che non sopportano più e non fanno neanche più il tentativo di nasconderlo, insomma, ecco lo sforzo di nasconderlo. E quindi penso che andrebbe ripristinata un rapporto di fiducia tra maggioranza parlamentare e governo attraverso quel famoso contratto di governo che lo stesso Renzi aveva giustamente richiesto e poi promesso per il mese di gennaio. Per quanto riguarda l'altra cosa, ma sai, quella è un seguito, quella la decisione di Grasso, un seguito, ne avremo anche altri, e questo è solo il primo, di una stagione politica in cui Berlusconi è finito in tantissime inchieste, in alcune è stato portato in processo, è stato anche condannato. Questa cosa non è che può sparire, non è che può essere eliminata dalla storia politica italiana, e avrà degli altri seguiti, delle altre conseguenze ogni volta che riguarderanno Berlusconi. Quindi adesso si può giudicare come si vuole la decisione del presidente Grasso, fatto sta che deriva da processi che sono in corso. Senti, ma invece relativamente a Monti, che ha detto Renzi rischia di far diventare un condannato padre di una nuova patria, dice, con questo patto sull'Italia, è un regalo al Cavaliere secondo Monti? Ma io a questa tesi, francamente, a questa polemica non vorrei cedere, perché siccome ho sostenuto sempre che le riforme costituzionali, le riforme, la legge elettorale, le grandi regole del gioco democratico dovessero essere fatte con la più ampia maggioranza possibile, il problema non è che Berlusconi si è seduto al tavolo. Berlusconi ha ancora più del 20% dei voti degli italiani, rappresenta la terza forza in Parlamento dal punto di vista numerico, forse anche la seconda come coalizione. Con chi le vuoi fare le riforme istituzionali se non con le altre forze che ci sono in Parlamento? Grillo non ha voluto partecipare, Berlusconi ovviamente non ha perso l'occasione di partecipare, ma mi sembra un'accusa un pochino ingiusta a Renzi. Diciamo che in passato è stata rivolta ad altri uomini politici della sinistra, da D'Alema a Veltroni, che hanno tentato di fare accordi istituzionali con Berlusconi, è stata bollata come inciuccia. Nei confronti di Renzi, per sua fortuna, c'è meno vis polemica. Forse perché non era ancora stato condannato Berlusconi in via definitiva, può darsi, ai tempi di D'Alema. Sì, ma Berlusconi è stato sanzionato dal punto di vista politico per la sua condanna in via definitiva con la decadenza dalla carica di senatore e l'ineleggibilità. Berlusconi non potrà essere eletto in Parlamento alle prossime elezioni. Per i prossimi 6 anni non potrà essere premier, non potrà essere ministro, non potrà essere, anzi, quando arriverà anche la sentenza della Cassazione sulla interdizione dei pubblici poteri, non potrà, dei pubblici uffici, non potrà neanche essere più cavaliere, perché perderà anche quel titolo onorifico. Quindi tutto questo è avvenuto ed è incancellabile. Dopodiché, per scelta del suo partito, continua a essere il capo di una roba che prende il 20-25% dei voti degli italiani. Credo che quella voce non può essere cancellata per le vicende, per le colpe giudiziarie di Berlusconi. Ultime due domande, Antonio Polito. Ti convince questa proposta, di questa bozza di riforma del Senato, quindi, che dice Renzi che sia soprattutto formato da sindaci ancora più che dagli esponenti delle regioni, presidenti e altri? Francamente no, io lo trovo un pochino pasticciato questo progetto, perché il modello a cui ci si ispira è chiaramente quello tedesco, cioè si fa finta di stare in uno Stato federale e quindi si decide che c'è una Camera delle Regioni dove si discutono le leggi che riguardano il rapporto tra Stato e Regioni. Questo sarebbe un procedimento trasparente e corretto. Ma se diventa una Camera delle Autonomie, cioè appunto con i sindaci, con 20 personalità di prestigio, eccetera, quali sono poi allora i suoi poteri? A che cosa serve? Diventa una specie di Camera dei Lord come quella inglese? Allora però bisogna dirlo, è una Camera dei Lord che fa una seconda lettura così consultiva di certe leggi e punto e basta. Ma così com'è, trovo che sia un pochino nebuloso il progetto, fermo restando che io ritengo giusto abolire il bicameralismo ed avere una sola Camera che dà la fiducia al governo, perché questo è un elemento di grande modernizzazione del nostro sistema politico. Secondo te, in chiusura, Antonio, è più Letta che logorerà Renzi o Renzi che logorerà Letta? Letta, perché qui si parla di logoramento ormai, chi è più sull'altro? Diciamo che il PD e i suoi antenati, i suoi partiti antenati sono stati maestri nel logoramento reciproco dei leader. La storia di questa Seconda Repubblica è tutta fatta di successioni, anticipi, D'Alema che sostituisce Prodi, Veltroni che fa cadere il secondo Prodi quando diventa segretario del PD, insomma sembra un film, non so, i duellanti, sembra queste saghe nordiche dove due fazioni si combattono per dell'eternità. E quindi io mi auguro, non tanto e non solo per loro, per il PD, ma anche per la governabilità, per il Paese, che non si traduca in logoramento reciproco. Secondo me non è possibile che uno dei due stravinca sull'altro, perché se stravince sull'altro ha una reazione che comporta che perde anche lui un pezzo di agibilità politica. Tutto sommato, secondo me, questo equilibrio instabile che si è creato con uno, Renzi, che guida il treno delle riforme tenendo Berlusconi a bordo, e un altro, Letta, che guida il treno del governo da cui Berlusconi è sceso e che voleva far deragliare, mi sembra l'unica possibilità per dare alla legislatura ancora un anno e fare queste cose che ha avviato Renzi, che sono di importanza estrema, cioè legge elettorale e riforme costituzionali. Grazie Antonio Polito, ancora complimenti, buona direzione allora. Grazie a voi, buon ciao, lavoro. Ciao Antonio. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci di nuovo insieme, vi ricordo brevissimamente i titoli prima di passare al prossimo ospite. Vedo adesso tra l'altro un'agenzia, una dichiarazione che riguarderebbe Letta. Letta raccoglie la sfida di Renzi, questo è il titolo, da solo dice Letta, non me ne vado, mi sfiduci. Insomma comincia a essere un po' più forte il rapporto, la tensione, come vogliamo dire. Oggi è stata la riunione del PD, Renzi che va detto, con noi la sinistra e i moderati, il rimpasto è un problema di Letta e propone il nuovo Senato, 150 persone senza indennità. E poi c'è l'ira di Forza Italia contro il presidente del Senato Grasso, lui replica nessuna persecuzione. Una risposta alla Confindustria dal governo Letta, ecco 250 milioni di incentivi alle imprese per assumere laureati e ricercatori. E poi le Olimpiadi invernali, il segretario generale dell'ONU alla vigilia dei giochi di Sochi chiede di alzare la voce contro gli attacchi ai gay. E saluto Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore. Bentornato Fabrizio. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Fabrizio. Oggi c'è stato Squinzi, presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, da Giovanni Minoli a Mix 24. Ha ribadito insomma che qui o si cambia passo o i confindustriali andranno da Napolitano. Sentiamo, dovremmo averlo qui, uno stralcio. Più che un disfattista, credo di essere un realista. Tra l'altro il presidente Letta mi ha convocato a Palazzo Chigi ieri. E cosa l'ha detto? Beh, ci siamo spiegati, gli ho presentato quelle che sono le nostre priorità che noi riteniamo debbano essere realizzate in tempi strettissimi. Ha preso impegni? Sì, ha preso l'impegno di tornare da noi il 19 di febbraio, si è offerto di venire a visitarci in consiglio direttivo di Confindustria. Ma viene portando delle soluzioni, e alcune già fatte e alcune avviate. Ma, Presidente, cerchiamo di essere chiari, se il 19 viene con la bisaccia vuota, che cosa capita? Sarebbe un grosso problema, a quel punto credo che non ci resterebbe altro che appellarci al Presidente della Repubblica. Ma il Presidente della Repubblica cosa può fare? O scioglie le Camere o fa un nuovo governo? Ma io credo che il Presidente della Repubblica, nella sua grande saggezza, che personalmente ho già avuto occasione di sperimentare più volte, prenderà le decisioni giuste. Insomma, Fabrizio si è sbilanciato parecchio su quello che pensa. Qui ci si muove, ha detto, oppure noi andiamo a Napolitano e... Cosa potrebbe chiedere Squinzi a Napolitano? Ma sai, Squinzi si dimette a Napolitano, ma insomma soprattutto Squinzi sembra che insiste, non perde ora, non perde giorno per incalzare Letta sulle cose che il governo deve fare. Insomma, qui abbiamo davanti un paese dove i consumi continuano ad arretrare, il lavoro continua ad arretrare, la base produttiva si continua a contrarre. Noi diciamo che l'Italia è il secondo paese per manifattura d'Europa. Io temo che se andiamo avanti così, presto non lo saremo più. Davanti a tutta questa emergenza, Squinzi cerca di richiamare ogni minuto della giornata il governo, in questo caso il Premier Letta, a tornare a un'attività di governo sui problemi concreti che abbiamo davanti. Questo mi sembra l'obiettivo reale di Squinzi. Quindi da una parte Squinzi, dall'altra Renzi, diciamo, è un certo pressing, come si dice nel calcio, Letta. Ma adesso questa decisione di stanziare 250 milioni di incentivi alle imprese per assumere laureati ricercatori ti sembra intanto una buona risposta, Fabrizio Forché? Questa è una piccola cosa, ovviamente, è una piccola cosa, ma in un senso positivo, perché insomma tutto quello che incentiva ricerca e innovazione va in senso giusto. Sono fondi già stanziati dalla manovra finanziaria, viene sbloccata una tranche di questi fondi. È sicuramente positivo, temo che però tutto questo poi venga in qualche modo annullato da quello che poi vediamo nel pomeriggio, questo dibattito alla direzione del PD, dove è difficile trovarne un senso in qualche modo. Ora tu leggevi la dichiarazione di Renzi, ma del Premier, di Letta, però in questo confronto che c'è stato in direzione fra Letta e Renzi, dov'è il senso tra un Renzi che da una parte non sembra intenzionato a subentrare a Palazzo Chigi e nello stesso tempo Letta però che si fa irretire da questo gioco tutto interno al PD e perde di vista quello che appunto dicevamo prima, cioè il governo. Lui ha una grande carta da giocare, Letta, in questa fase, ha il governo in mano, il governo deve agire, deve fare delle cose. Se invece si perde in un dibattito tutto politico all'interno del partito, rischia appunto di perdere se stesso, di perdere il governo e in qualche modo di ritardare le soluzioni che servono al paese. E infatti diceva, una grande occasione quella del PD oggi, diceva la direzione del PD, non perdiamo questa occasione, forse invece, come dici tu, l'occasione è quella da non perdere, di avere il governo in mano. Grazie Fabrizio Forché, grazie e buon lavoro. Ciao Fabrizio. Abbiamo gli aggiornamenti per chi viaggia, sì. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ancora due vostri messaggi, anzi tre. Alessandra che dice: ha ragione Renzi a voler andare al governo solo sorretto da un'ampia platea di voti per fare vere riforme. Poi invece Tullio scrive: i politici parlano da mesi, discutono di aria fritta, questi politici non hanno nessuna intenzione di cambiare le cose, a loro va benissimo così. Mentre Fabio: se fosse disposto per legge l'obbligo di coerenza da parte dei parlamentari, non esisterebbe la possibilità di compravendita di senatori e o di deputati. Ma adesso spostiamoci sulle vicende europee. Ad Atene ha preso il via oggi la due giorni dedicata alla macro regione adriatica ionica. Per capire quali sono i contenuti ci colleghiamo con la nostra Valeria De Rosa. Europa 24 notte. Verso le europee. Buonasera Roberta, ad Atene si svolge questa due giorni sulla strategia dell'Unione per la regione adriatica e ionica. Ancora poco di concreto, anche se i partecipanti e soprattutto la presidenza di turno ellenica hanno assicurato che un documento arriverà prima della fine dell'anno. Si tratta in sostanza di una modalità di lavoro condivisa tra Italia, Grecia, Slovenia e Croazia, che fanno parte già dell'Unione Europea, Bosnia e Erzegovina, Serbia, Montenegro e Albania. Ma sentiamo il commissario agli affari regionali Han. Amongst the involved member states, here we have 8, 4 belonging to the European Union, 4 still not. L'obiettivo principale è di rinforzare la cooperazione tra gli Stati membri e qui ne abbiamo 4 che fanno parte dell'Unione Europea e 4 che non ne fanno parte. Diciamo che tra gli scopi c'è anche quello di avvicinare e rendere più familiare per coloro che non fanno parte dell'Unione le modalità con cui usiamo i fondi europei, insomma quali sono le regole del gioco. Questo non è un proposito secondario, ma direi tra i principali. Siamo comunque concentrati su 4 priorità: questioni marittime, connessione tra paesi, turismo, energia e ambiente. E tutto si riferisce alle aree costiere. Se volete, questo è un limite, ma riteniamo sia meglio concentrare gli sforzi di persone persone e fondi economici per ottenere risultati migliori. Si tratta, come avete sentito, anche di un modo per allargare i confini europei, anche se spesso si ha la percezione che sia la stessa Europa a non voler ampliare i confini. Sentiamo che cosa ci ha risposto il commissario Hahn a questo proposito. Devo ammettere che in Europa in generale, in particolare con la crisi, c'è un certo stress d'allargamento, ma è comprensibile se si tiene in considerazione quanto sia difficile la situazione per molte persone da 4 o 5 anni a questa parte. In molti paesi la situazione sta migliorando, ma siamo lontani da un assetto normale. C'è quindi riluttanza sull'allargamento, ma i politici dovrebbero avere una visione più ampia. Abbiamo cominciato il processo di riunificazione nel 99, non è ancora completato. La nostra missione deve essere quella di portare a termine il progetto. Non accade allo stesso tempo e ovunque, ma è il nostro scopo ultimo. E da Atene è tutto. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Grazie quindi a Valeria De Rosa. Cambiamo argomento, ritorniamo su una questione che abbiamo trattato ieri, che continua a suscitare riflessioni in varie direzioni. Ieri vi parlavo di questa durissima denuncia dell'ONU contro la Santa Sede, colpevole secondo l'ONU di non aver assunto le misure necessarie per affrontare i casi di abusi sessuali, no? Su minori e proteggere i bambini, non riconoscendo, dice l'ONU, la portata dei crimini e permettendo la prosecuzione di abusi e l'impunità degli autori. Quindi l'ONU invita il Vaticano a rimuovere immediatamente dai loro incarichi colpevoli e a valutare il numero dei bambini nati da preti cattolici, scoprire chi sono, prendere le misure necessarie per garantire i loro diritti. E poi c'era anche questo invito a rivedere le posizioni su aborto, contraccezione e gay. E poi il Vaticano ha risposto, insomma, che queste erano anche delle interferenze. E oggi, se non sbaglio, sì, in un'intervista al Messaggero c'è padre, lo ritrovo la sua dichiarazione, Hans Zollner, responsabile del Centro per la Protezione dell'Infanzia alla Pontificia Università Gregoriana, che dice che tali raccomandazioni arrivano da una commissione, quella dell'ONU per i diritti dei minori, che non ha competenza giuridica. E allora lo chiedo, se è così, a Maria Rita Parsi. Buonasera. Buonasera. Psicologa, psicoterapeuta ed è l'unica italiana a far parte del Comitato ONU appunto sui diritti dell'infanzia. Quindi insomma c'è stato molto clamore per questo atto d'accusa dell'ONU nei confronti del Vaticano. Ma io direi che si tratta non di un atto di accusa ma di raccomandazioni, come si fanno sempre, perché il Comitato ONU il Comitato ONU è un comitato che come obiettivo ha quello di far rispettare i 54 articoli della Convenzione ONU per i diritti dei fanciulli e delle fanciulle, 0-18 anni. Quindi nel caso della Santa Sede le richieste che sono state fatte è accertare la verità su certi fatti che sono avvenuti, curare le vittime, prevenire nuovamente gli abusi, formare i formatori, reintegrare nel sociale le vittime e risarcirle. Questo è un discorso di invito a riflettere, non è una sfida o è una battaglia culturale. Quindi, poiché la Santa Sede ha aderito alla Convenzione ONU dei diritti per i fanciulli e per le fanciulle, quindi armonizzare la propria disciplina canonica, il proprio diritto interno compensato con la Convenzione ONU dei diritti dei fanciulli e delle fanciulle, è quanto di meglio e di più importante si possa fare, anche perché sinceramente il cristianesimo e la Chiesa cattolica al centro di tutto al bambino. Ora, il superiore interesse del bambino è qualcosa che deve essere profondamente caro alla Chiesa cattolica, quindi da anni la Chiesa sta facendo degli sforzi enormi per rimuovere queste ferite dal suo interno. Non è da ora che si sta muovendo questo discorso e non è da ora che si stanno facendo tutti questi cambiamenti profondi nella Chiesa per accertare la verità su certi fatti di abuso, su quanto è accaduto e per curare le vittime e per risarcirle. È già cominciato questo processo. La Commissione ONU non ha fatto nient'altro che sottolineare l'importante e il valore di tutto questo e raccomandare che avvenga tutto questo. Quindi qualcuno però, Maria Rita Parsi, ha trovato particolare la tempistica, nel senso che è stato detto anche da alcuni vaticanisti, in realtà Wojtyla su queste cose non ha fatto quasi nulla, però poi c'era stato Ratzinger e poi Papa Bergoglio addirittura è visto come il Papa, insomma, della nuova svolta, una direzione finalmente più aperta e anche più rigorosa nei confronti di scandali che ci sono stati anche nel passato, no? Dice, come mai proprio adesso c'è questo richiamo dell'ONU? Ma io direi che sono tempi maturi per tutto, come maturano i tempi per la Chiesa, che sta prendendo coscienza già da anni di questo che avviene al suo interno e che deve essere una ferita da curare, così questa commissione ha espresso, con il lavoro dei suoi esperti, molti dei quali sono giudici, molti dei quali sono avvocati, molti dei quali sono professori universitari di diritto, e sono 18 membri che lavorano a tempo pieno, faticosissimamente, e probabilmente hanno espresso hanno espresso il polso della situazione, quindi erano tempi maturi e si è visto che erano tempi immaturi, per dire anche questo. Maria Rita Parsi, abbiamo proprio un minuto, poi ci tagliano. Sì. Sulla questione invece di rivedere le posizioni su aborto, contraccezione e gay, il Vaticano ha detto... Ma non è stato chiesto questo, bisogna leggerli gli atti. No, è stato sottolineato che quando c'è il rischio per una salute di una giovinetta che rimane incinta, parliamo da 0 a 18 anni, e c'è il rischio per la puerpera di vita, allora l'aborto deve essere accettabile. Non ho sentito di rivedere che la Chiesa riveda la sua posizione sull'aborto. Quanto al discorso della discriminazione, non vanno discriminate le persone o le famiglie, ma va fatta attenzione alle nuove forme che si stanno sviluppando e a quelle antiche, perché il discorso dell'omosessualità è una antica condizione degli esseri umani, orientamento sessuale che si sta esprimendo, e quindi quando nella tutela dei diritti dei bambini e delle bambine, quando i giovinetti esprimono un orientamento sessuale non vanno discriminati. Benissimo. Come pure i bambini che vivono in famiglie che sono diverse da quelle non. Grazie Maria Rita Parsi, grazie, quindi buona continuazione e buon lavoro. Noi ci sentiamo tra pochi istanti.